Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Poi cerca il tiro, 7-0 di Schürrle. 7-0 di Schürrle. Fernanda, la parte opposta, questa volta nella terra di nessuno, anzi Oscar nella terra di nessuno. Neuer, Oscar, 7-1. L'arbitro dice che può bastare dopo neanche 2 minuti di recupero. Manda tutti sotto la doccia. È una semifinale che passerà alla storia. Germania batte Brasile 7-1. Questa non è una puntata di Melog, questo è un esperimento antropologico. Sono stato buttato dentro questo studio e mi è stato detto: oggi parla della partita. Già ho fatto una cosa del genere tempo fa, ma qualcosina sapevo, perché in generale era legata al nostro orgoglio nazionale ferito e vilipeso, e quindi in qualche maniera avevo modo di impapocchiare una chiacchierina finché qualcuno non chiamava l'800240024 e mi dà degli elementi di riflessione sul perché fosse stato un lutto nazionale. Oggi veramente non ho argomenti, oggi non riesco a capire perché tutti sono così attizzati sul fatto che ci sia stata una partita dove il Brasile ha perso 7-1, cioè ha vinto la Germania 7-1, adesso non so esattamente come si dice, quindi spiegatemi voi che mi ascoltate esattamente qual è il senso, qual è la profonda lettura di questo fatto che sembra sconvolgere tutti. Catastrofe mondiale, Brasile caput 7-1. Scusate, perché catastrofe mondiale? Ma se la vedete dal punto di vista dei tedeschi, gloria nazionale, giornata di festa. Perché dobbiamo essere così empaticamente vicini ai brasiliani che hanno perduto? Perché ci stanno sulle palle tedeschi? Diciamolo, semplicemente per questo, allora mi sta anche bene. Altri titoli vi leggo, perché devo prendere tempo finché voi chiamate e mi spiegate cosa sta accadendo. Brasile, dramma nazionale, la Germania l'umilia 7-1, hanno perso 7-1, evidentemente. Io immagino, non capendo nulla di calcio, aspettando da voi all'800240024 qualche lume, che avranno visto che stanno perdendo e hanno detto: tanto ormai perdiamo, perché dobbiamo impegnarci più di tanto, e quindi sono stati lì, come diciamo uno che sta per subire l'estremo oltraggio, l'estrema umiliazione. A un certo punto si rende conto che, per quanto s'agita, comunque il sopruso ci sarà, e quindi dice: tanto vale starsene fermi, così non si fa il gioco dell'avversario. Questo avranno pensato, immagino, ma voi dovete dirmi perché. Poi altro titolo, il Corriere della Sera mette una foto strappalacrime, un bambino che immagino che abbia la maglietta del Brasile, gialla col bordino verde, che piange, un bambino triste. Il Brasile umiliato dalla Germania, un paese in lacrime. Ora, perché il Brasile è in lacrime perché hanno perso una partita di calcio, posso anche capirlo. Era un paese che aveva investito tantissimo nel calcio, poi mi sembra che questo mondiale si facesse proprio in Brasile, quindi hanno raso al suolo intere favelas con le ruspe, con i bambini dentro, per fare lo stadio, e quindi dicendo: abbiamo sprecato sangue innocente, perché a questo punto tanto valeva che facciamo uno stadietto più piccolo, lasciamo quelli nelle favelas. Invece il Brasile è stato umiliato. Addirittura Aldo Cazzullo, il sogno perduto. Io penso, non capendoci nulla di calcio, perché il sogno perduto? E poi soprattutto, perché tutta questa grande umiliazione per una perdita di calcio, che evidentemente giocavano peggio degli altri? Mi domando però, se noi avessimo per caso, casualmente, vinto una delle partite che abbiamo perso, e oggi ci trovassimo in questo scorcio di finale di campionato, come avremmo reagito? Quale sarebbe stato il nostro punto di vista? Tutta la nostra emotività sarebbe spostata verso la squadra italiana? Perché c'è questa sorta di empatia, di generale solidarietà nazionale verso il Brasile? Perché il Brasile è uno stato che comunque appartiene emotivamente agli stati disagiati, quindi pensiamo subito ai poveri bambini brasiliani che hanno investito tutto nel calcio, su cui abbiamo fatto degli spot terrificanti, in questo ci siamo distinti in una maniera madornale. I bambinelli che giocavano a pallone, poverini, in una sorta di angolino tristissimo, i nostri più grandi commentatori che commentavano quella partita, oppure quella pacchianata terribile che ha fatto la Rai del Cristo di Rio con la maglietta italiana, che ci ha portato una sfiga tremenda. Beh, 800240024, spero che qualcuno mi spieghi il perché oggi siamo tutti qua come se fossimo alleati del Brasile in so quale impresa, e piangiamo addosso. Massimo, finalmente. Buongiorno. Ma mi spieghi lei cosa è accaduto esattamente, perché non ne ho avuto, notizia soltanto stamattina. Ieri non pensavo ci fosse una partita così importante, l'avrei saputo, avrei comunque dato un'occhiata, e soprattutto non sono preparato nel trattare questo argomento. Cosa è accaduto? Perché oggi tutti i giornali parlano, c'è il bambino brasiliano che piange umiliato? Perché abbiamo tanto a cuore questa cosa? Insomma, cosa ce ne importa se vinceva il Brasile o la Germania? Perché questo è una notizia. Il Brasile gira in parallelo con l'Italia, strafottenti e fondamentalmente anche molto ignoranti. Perché allora gli sta bene, Dio c'è, questa è la soluzione. Non dobbiamo... Assolutamente. Ha vinto il migliore, ha vinto chi prende le cose per il verso giusto, con impegno, senza molti tatuaggi, senza molte creste. Oh, mi spieghi bene, perché i giocatori del Brasile sono strafottenti? Sono convinti di avere la palla magica e non una palla del calcio ai piedi. Il Brasile sotto shock. E come reagirà il gigante atterrato, dice Aldo Cazzullo? Ma cosa ce ne importa? Torneranno a casa, hanno perso. Qual è il problema? Hanno perso, sono arrivati in semifinale che non meritavano di arrivare. Ecco, diciamolo. Perché? Andavano buttati fuori molto prima, però siccome sappiamo come funzionano le cose... Qui c'è un complotto dietro per farli rimanere fino quasi alla fine, c'è stato. Li hanno spinti sicuramente un pochino. Perché facciano pena, poverini, favelas, queste cose qua. Abbiamo una lettura. Hanno raccolto quello che hanno seminato. Ma dunque, questo risultato 7-1 è un risultato che farà epoca, mi dicono, perché non ci sono precedenti. A me è spiaciuto che abbiano segnato l'unico gol, perché meritavano un bel 7-0 a casa. Cioè deve essere un'umiliazione totale, deve essere 7-0. Sì, perché i tedeschi rappresentano quello che andrebbe fatto, cioè pianificazione, abnegazione, certo, massificazione. Tutto organizzato perfettamente, proprio nella logica tedesca. Organizzati, lo dimostrano come nazione, lo dimostrano in tutto. Lei è un'espressione. Lei ha un delirio di pangermanesimo retrivo, però. No, se c'è la finale con l'Olanda, io tifo Olanda perché gliel'hanno rubata due volte. Vabbè, adesso entriamo in un terreno per me troppo minato. Diego. Buongiorno. Mi spieghi cosa è accaduto? Secondo me qua è un po' una proiezione, uno psicodramma intanto collettivo nazionale. Ma è come, perché non possiamo piangere dei nostri morti, dei nostri, diciamo, delle nostre disgrazie, quindi piangiamo di quelle altrui? No, io penso che anticamente, nell'antica Grecia, le guerre si fermavano improvvisamente e tutti andavano a sfidarsi a Olimpia, no? Sì, certo. Qui potremmo diciamo azzardare questo parallelo. Sarebbe bello, diciamo. Sì, ma perché noi facciamo le prefiche, visto che a lei piace le citazioni classiche, e piangiamo per procura per gente che non ce dovrebbe, da cui perdita del calcio non dovrebbe poi importarcene più di un'altra cosa. Qual è la differenza che fa per gli italiani? Perché ci assomigliano più brasiliani, i tedeschi ci stanno antipatici. Ma è come una sconfitta, cioè, allora, è esattamente, diciamo, psicodramma nazionale. Il Brasile punta tutto su, in questo momento, su un riscatto attraverso il calcio, ha i suoi problemi sociali enormi. Gioca tutto sul calcio e ha perso. Quindi è come una sconfitta militare, cioè ha perso la guerra, tra parentesi. Ma perché questa cosa colpisce? Anche noi abbiamo giocato tutto sul calcio e siamo tornati con delle pivone nel sacco. Beh, fortunatamente non è che abbiamo giocato proprio tutto sul calcio. Se fossimo a livello, del Brasile, saremmo già spacciati. Stiamo già male, ma spero che di riuscire a essere un pochino... Va bene, molto chiaro. Sentiamo Marco. Marco, vorrei anche qualche signora che mi dia il suo parere, perché sto capendo cose, imparando cose che mai avrei sospettato. Marco, cos'è accaduto? Sì, buongiorno. Perché piangiamo? Perché vediamo il bambino brasiliano, che poi tutto sembra meno che brasiliano, che piange? Hanno fatto mettere la maglietta al figlio di qualcuno che sta lì, dice fai finta di piangere bambino, e così hanno fatto. Ma sì, certo, molto, molto lo si fa perché mi dice Rocchetti che piangeva proprio. No, ho detto una stupidaggine. Quel bambino piangeva proprio, l'ha visto Valerio Rocchetti in diretta. Sì, ma il fatto di continuare a riproporselo, voglio dire, fa un po' parte di una certa... Gli avranno detto piangi, dai, che va in televisione, figurati. No, non tanto quello, probabilmente molti avranno pianto, non solo è bello, bambini, nutrito, grasso, cioè, non è un bambino povero quello, è un bambino ricco. C'è anche il braccialettino giallo che andava in tribuna d'onore, probabilmente. Certo, ma parliamoci chiaro, se gliel'avessimo dato noi 7-1, noi non avremmo fatto tutte queste lacrime. Certo. Le facciamo. Vedrai questa foto, domani qualcuno dirà, direi la foto parte dell'anno. Ci sono i cattivoni. Scusi un attimo, diranno questa è la foto dell'anno, la foto del mondiale. E già saranno pronti gli editorialisti, la lacrima di quel bambino brasiliano. Vediamo la sofferenza, la frustrazione, l'emarginazione. E finalmente lui pensava che ci sarebbe stato un riscatto, ma quei 7 gol pesano sulla sua giovane coscienza come se fossero 7 fucilate, le 7 spade che gli trafiggono il povero cuoricino innocente. Già mi immagino queste cose. Sì, ma loro vorrebbero farlo pesare anche sui tedeschi questa cosa, bravo, perché si parla di spietatezza, di spietati, sui, cattivi, no? Certo. E ne parliamo così perché ci sono i tedeschi dall'altra parte, ripeto, perché se c'eravamo noi non ci permettevamo non mai di fare delle sceneggiate del 18-1, che bello, gli abbiamo fatto il culo, avremmo detto, va bene, appunto, certo, appunto. Nicola, buongiorno. Ci siamo capiti. Nicola. Sì, mi senti? Sì, certo. Ok. Mi sta appassionando il calcio, la prossima stagione vorrei fare una trasmissione di calcio. Prego, Nicola. Ma qui si va oltre il calcio, praticamente certo. L'identità del Brasile è quella lì, si dice, c'è un detto che una mamma brasiliana quando nasce il proprio figlio non sa che cosa farà, ma sa che ballerà la samba e giocherà al calcio, quindi vedere quel bambino piangere lì è un'identità, purtroppo noi non ce l'abbiamo questa identità. Sì, io ci ho fatto un servizio ieri per il mio giornale, avevano aperto in Brasile una scuola che dava l'80% la sicurezza di riuscirsi a mettere con un calciatore, si sono iscritte mi sembra 150-200 ragazze, costava 150 euro e il risultato si chiama Maria Scarpino, perché lì diciamo la fidanzata del calciatore, adesso non ricordo il nome brasiliano, viene equiparata a uno scarpino, una cosa che si infila e poi si butta. E volevo solo fare un piccolo parallelo, noi nella finale di Coppa Italia abbiamo ucciso una persona, lì hanno pianto, questa è la differenza che c'è tra noi e loro. Ucciso in che senso? No, questo mi manca. No, ucciso nel senso che faccio riferimento agli scontri di Roma. Ah, un tifoso, nel senso un tifoso. A quel tifoso che è morto, loro hanno pianto, magari avessimo pianto anche noi sugli spalti. Vabbè, questo adesso non confondiamo le facezze che facciamo sul risultato di calcio, con chi è morto è una cosa che non dovrebbe accadere senz'altro. Ci fermiamo un istante, sono troppo preso da questa cronaca a posteriori di un lutto nazionale che condividiamo non sa per quale ragione. Melog, cronache meridiane. Non capiamo come sia potuto succedere, nessuno lo capisce. Sì, Neymar? Non è accaduto a causa dell'assenza di Neymar, è colpa di tutta la squadra. Ah, molto triste, molto triste. Siamo molto, molto tristi. Neymar è mancato. Allora mi scrive un ascoltatore un lungo sms. Lei non è uno stronzo. A volte però si comporta in maniera stronza. Ma spesso per argomenti leggeri, a volte comici. Ma oggi da voce un problema serio. Uno dei motivi principali della crisi è che abbiamo dato il potere a teorici e burocrati solamente perché lavorate alla Bocconi. Ci siamo dimenticati, semplici, di chi ha i soldi. Non ho capito, poi va avanti. Comunque Brasile uguale sole più divertimento e simpatia più gnocca. Germania uguale clima grigio, più rigore e serietà Merkel. Ah ecco, mi dà ragione, quindi non è che ho detto una stronzata. Oh, mi mancava un elemento fondamentale che il mio consulente Valerio Rocchetti mi ha fornito mentre andavano le informazioni del traffico. Noi in realtà dovremmo essere contenti, perché facciamo finta di essere tristi? Perché il Brasile è quello che ha vinto più coppe del mondo si dice? Sì, 5. L'Italia ne ha vinte 4, quindi diciamo ci stiamo avvicinando al record del Brasile, dobbiamo essere contenti che ha perso. Quindi abbiamo una possibilità, semmai remota, comunque di raggiungere nelle coppe del mondo, quindi dobbiamo essere contenti. Viva la Germania che ha sconfitto il Brasile, così rimarremo i secondi nelle coppe del mondo. Claudio, buongiorno. Sì. Eccoci. Ma niente, la mia chiave di lettura sul perché molti sono contenti che il Brasile abbia perso è perché... No, sono tutti, lacrimano tutti, al contrario, nessuno è contento. Io direi guarda, io sono contentissimo perché è giusto far pagare la presunzione e anche, come riagganciandomi a quello che diceva l'ascoltatore prima, perché il Brasile è stato cercato, come sempre si è stato fatto, chi gioca in casa ha interessi economici enormi da portare avanti per i contratti pubblicitari e tutto, le squadre di casa vengono sempre storicamente aiutate ad andare avanti e quando non lo meritano... Mi fa capire una cosa, Claudio, come mai io... Per quanto possa valere, ma io do a questo un valore importante, diciamo il test del pubblico di questa mezz'ora di radio, che comunque è sempre corrispondente a un sentire nazionale. Come mai è antitetico rispetto, diciamo, al lutto nazionale espresso dai maggiori quotidiani, dalla televisione? Sembra che tutti piangano nei media, ma gli italiani tutto sommato sono contenti, alla fine va bene. Di affibbiare al Brasile diciamo, la proprietà del calcio. I brasiliani sono i proprietari del calcio per il loro tecnico, ma questo non succedeva una volta, adesso tutti si sono evoluti praticamente come noi della pizza, che non si può toccare la pizza più o meno, sì, la stessa cosa. Poi vai in altri posti e la mangi molto meglio della stragrande maggioranza delle pizzerie italiane. Sì, non parlo di Stati Uniti o di mondo anglosassone, però dico, non è vero che noi abbiamo il deposito assoluto della pizza, della pasta, anche se è vero che le eccellenze le troviamo qua, probabilmente le... Quindi è un coro ipocrita e strumentale per intingere il pane nel dolore altrui e dire, ah, facciamo una bella storia lacrimosa. Non so se è per intingere il pane nel dolore, ma di fatto il Brasile quest'anno meritava di uscire ancora alla fase eliminatoria, o quasi. Esattamente il contrario di quello che leggo nei giornali, un sogno infranto, cioè tutti sembra che... Il sogno fermo, attenzione... Il sogno è una cosa, la realtà è un'altra. Beh, anch'io posso sognare di fare la telecronaca di una partita di mondiali. È il mio sogno, ma non lo farò mai. La realtà, cioè, che è un piccolo uomo con poche donne. Ah, ecco, un piccolo uomo con chi? Il Brasile? Lo dico perché l'ho vista fotografata ogni tanto e non mi sembra che sia un adone. Al pari mio, che sono bruttissimo anch'io. Però ma che c'è? Dire, no, faccia capire. Ognuno che c'entra? Questa sua rosicata finale che c'entra? Scusi. Tutti noi sogniamo. Perché secondo lei le donne apprezzano gli uomini belli, mi faccia capire. Dove no, dai, era una battuta per dire qualcosa. Ma era gratuita. Non è che me la prendo. Era gratuita. Ah, vabbè. Insomma, dica, mi rode un pochino vedere delle foto lei accompagnato dalle avvenenti signore, devo dire una cattiveria. Vabbè, la capisco, mica. Comunque, bene andare fuori. I tedeschi dimostrano sempre la solita cosa che tutti fanno. Poi le foto non danno mai contezza giusta del valore delle persone. Pier, buongiorno. Basta. Buongiorno. Niente, riflettevo sul fatto che per me ieri sera non è stato un discorso di il Brasile che perde contro la Germania, chi gioca meglio è giusto che vinca, anzi per fortuna vince. A me ha dato fastidio questo infierire, maramaldeggiare rispetto a una situazione già... ma chi è che i conduttori, diciamo i cronisti? Perché a me non sembra, anzi... No, era l'atteggiamento dei giocatori tedeschi della Germania. Ma che devono fare? A un certo punto dicevano, basta, adesso vi graziamo, giochiamo a carte... No, non era una degnazione, vi graziamo, eccetera. Uno era... finché poi lo spinge dentro, i discorsi, finché se l'altro non pone resistenza, mica può stare lì e dice, no, guarda, scusa, ti ho fatto troppo male, aspettiamo un po'. Allora, io non ho visto il primo tempo, però quando ho acceso ho visto 5-0, ho detto ok, adesso farà di tutto il Brasile, infatti hanno giocato, secondo me... Aspetta, fermo, ho visto un'altra foto sul Fatto Quotidiano, doppiamente triste, una bambina poverina che piange disperata abbracciata alla madre, entrambe con delle maglie gialle, la madre non sa più come consolarla, e questa è... terribile questa foto, ma io non so, vorrei fare la rassegna dei bambini brasiliani che piangono per la partita di calcio, che non vediamo quelli che piangono quando vengono massacrati nelle favela, quando vengono diventano tiro a bersaglio di squadroni specializzati, in questo improvvisamente poi tutti carini, tutti belli, sembrano le vecchie pubblicità che faceva Toscani per la Benetton, ecco, che tutto avevano meno che aria di bambini macilenti. Leonardo. Salve Nicoletti. Io parto dall'inizio, dalla sua domanda, no? Di cercare di aiutarla a capire il perché, ecco. Oggi la stampa dà questo connotato. Allora, in pillole, gli inglesi inventano il calcio moderno, poi scuole sudamericane e europee lo raffinano. Il Brasile ha sempre sfornato, non per nulla, è la federazione che ha vinto più campionati del mondo di tutti, 5. Dopo l'Italia, 4. Fermo un attimo, scusi se la interrompo. Altra foto su Repubblica. Non avevo notato questo particolare, scusi se poi le ridò la parola. Due bambini brasiliani. Il bambino che sembrano le tre scimmiette, devo dire, una con che si chiude le orecchie, una alla bocca e una agli occhi. La bambina si chiude le orecchie perché non vuole sentire e urla. Il bambino si chiude la bocca e il terzo bambino che non si vede probabilmente si chiuderà gli occhi per non vedere. Ancora una volta si gioca sulla cifra emotiva del bambino brasiliano. In tutte le sue possibili disperate occlusioni sensoriali per non partecipare appunto a questa terribile sconfitta. Prego, vada avanti. Quindi sostanzialmente cade la nazionale di calcio numero uno, la più forte, quella che comunque nel tempo ha sfornato i campioni più brillanti, quelli che con la giocata risolvono la partita. Non è possibile, Concita De Gregorio, così no, così no. Cos'è una violenza feroce e crudele che infierisce su un corpo, una squadra, un paese steso a terra in lacrime, al buio, nella pioggia, rannicchiato sotto i colpi? Perché non si fermano? Chiede un tifoso olandese. Cioè, sembra quasi uno stupro in diretta che 11 gagliardi giocatori siano stati presi e violentati dai cattivi tedeschi. Ma dove l'ha vista questa cosa? È stata così? E mi dica, questa è stata la lettura di Concita De Gregorio, giusta, corrispondente? C'è stato uno stupro collettivo che io mi sono perso? No, io direi di no, però diceva Gianni Brera che il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti. Il Brasile oggi ne è un esempio vivente, no? Che il calcio sia la cosa più importante delle cose meno importanti. Ebbene, perché quindi è stata una lezione filosofica, dovremmo apprendere da questa lezione. È un memento mori fondamentale, è un contemptus mundi. Dobbiamo capire che le vanitas del mondo non sono quelle in cui dobbiamo appoggiare la nostra fermezza, la nostra certezza di esistere. Nicoletta. Eccomi, buongiorno. Il mio è un intervento da profana, nel senso che di calcio non capisco. Non ha guardato la partita? No, non l'ho guardata per principio, perché è contro la sua religione. Vabbè, io non guardo il calcio in generale. No, niente, credo che l'intervento logico sia pensare che noi con i tedeschi ce l'abbiamo un po' a morte perché ci fanno patire su altri settori. È quello che pensavo anch'io, capito? Pensiamo alla Merkel, quindi tutti contenti, esatto, se avesse perso la Germania. Cioè, avessero vinto i brasiliani, avrebbe vinto, diciamo, il povero. Diciamo. La sconsideratezza, il folklore, la gioia, il samba, i culi di fatti, tutto quello che a noi piace. Oltre a tutto il resto riescono a vincere anche sulle cose ludiche, quindi stanno antipatici per questo. Quindi, come diceva l'ascoltatore prima, dice purtroppo c'è niente da dire. Però c'è anche da dire che probabilmente c'è un metodo a monte per cui loro riescono in cose dove magari gli altri... Ma lei è d'accordo con quello che dicono tutti i nostri commentatori, che non bisognava infierire, bisognava fermarsi? Al quinto gol bisogna dire vi abbracciamo, basta, abbiamo deciso, una sorta di vittoria. Solo perché sono i tedeschi, fossero stati degli altri non l'avremmo vista come un infierire. Ecco, i tedeschi sono cattivi, gli hanno fatti sette, che sono sadici. Va bene, Ennio. Sì, buongiorno. Ho capito tutto questa mattina. Ma ecco, bene. No, quello che a me premeva dire è che secondo me il nocciolo è quello che ha detto lei prima, quando lei ha detto è la foto di un bambino che tra l'altro non sembra brasiliano. Beh, forse il punto è proprio quello che... Sì, bambini bellissimi, sono bambini della pubblicità. Sì, ma perché sono bellissimi anche. Sì, ma bellissimi nel senso... Che hanno... nel senso, diciamo, occidentale del termine. Hanno lo stigma evidente del benessere scritto in faccia. Ecco. Esatto, perché forse la scommessa del Brasile nell'organizzare il mondiale e poi nel giocarselo era proprio quello di riuscire a dare un'immagine diversa di sé, perché il Brasile ultimamente è uno dei paesi emergenti economicamente. Però evidentemente dare questa immagine diversa ha permesso che lo bastonassero, qualcuno gli ha detto no, fermo, tu devi rimanere quello che nel nostro stereotipo più radicato è, quindi samba, quindi belle ragazze, boom boom e via dicendo. Vabbè, grazie, mi avete insegnato qualcosa. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti, mio consulente questa mattina.